Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei cani, Rockabist, come si chiamava questa canzone? Dead Soul Cowboys. Dopo questo disco, quali sono le prossime mosse che attendono la vostra band per il futuro? Beh, come avevamo già detto prima, abbiamo già cominciato le riprese per il video che verrà fuori, spero fra un mese o poco massimo, più. Sì. Massimo sì. Due mesi, il regista si chiama... Blake Farber, è da New York. Quindi è una persona, comunque non solo perché è new yorkese, perché comunque è una persona, se andate a vedere il sito di Blake Farber... Ha un bel curriculum. Esatto. E il video che verrà mandato a TV, e fanzine, in web, dedicate, diciamo, portali dedicati al genere. E poi suonare. Suonare. La promozione del disco sta in quello. E dopo magari rispolverare un po' di contatti per organizzare un mini tour in Germania come abbiamo fatto l'anno scorso. Sì, Austria, Germania, Olanda. Toccando un po' Austria e Olanda. O magari qualche comparsata Svizzera, Francia. Comunque i dischi si vendono sempre più a fatica. Il modo migliore per venderli è suonare, andare on the road e nei live tentare di vendere qualche copia sperando di piacere al pubblico e farsi conoscere. Sì, esatto. Comunque prima tour in Italia di promozione e poi tour in Europa sicuramente. Ora è il momento di quale canzone? Don't Steal My Boots. Try to kill my fire. You wanna change my soul. So I did to it back and small. Il tempo scorre e noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS, su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un grazie ai cani per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un altro CD. A voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album e un calendario di prossimi live. Allora, già questo sabato, il 15 maggio, siamo alle Streghe Gothic Pub a Piove di Sacco a Padova con spalla alle Motolickers. Ultima notizia dell'ultima ora, mi è arrivato un messaggio: venerdì siamo al bar Il Castei di Montecchio Maggiore, Vicenza. Ok, il 22 maggio siamo al Rock and Roll di Rho in provincia di Milano, il 29 maggio al Castello di Grancona di Vicenza. Insomma, poi tenete d'occhio il nostro MySpace. Sì, i contatti sono www.caniband.com, da lì ci sono i link che sono il myspace.com/caniband, ovviamente tutto con la K, caniband. Abbiamo anche un canale YouTube che comunque è raggiungibile tramite il sito, che è caniband.com, l'ho già detto tre volte, caniband, comunque caniband.com con la K, www.caniband.com, da lì c'è anche il contatto mail, che è sempre con la K, che è caniband@gmail.com, che ma è raggiungibile con la K? No, com con le C, che è raggiungibile da caniband.com il sito, con la K, anche di mail con la K, sì, no, il o com con la C. I cani con la K, sì. E? Ok. Magari di anche quello della nostra etichetta. Grazie Alberto e a tutte, insomma, Nicotine Records, che è www.nicotinerecords.com. Senza solo, K. Ovviamente solo noi potevamo trovare un caso che si chiamava Nicotine. Grandi. Brano per chiudere questa puntata: Rock a Beast, la canzone che dà il titolo al title track. Esatto. Gianluca e i cani vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo. Rock ciao and roll. Yeah.